Eccoci qua, Sister is Blooming, puntata numero 37, Amanda Palmer, The Killing Type, la nostra sigla. Benvenute a tutte e tutti, in apertura appunto del martedì femminista e lesbico autogestito, quindi un altro bel martedì da passare insieme. Mi ricordo i riferimenti intanto della radio 0649 1750, per appunto chiamarci, darci notizie, appunto farci sentire che ci siete. www.ondarossa.info, appunto il sito di riferimento della radio, e anche dal quale potete ascoltarci in streaming se non siete vicino alla vostra radiolina. E per quanto ci riguarda, su Facebook Sisterhood is Blooming, dove condividiamo le nostre cose, e poi www.twomenshow.wordpress.com, dove trovate poi podcast e playlist, ma ve lo ricorderò alla fine. Allora, un sacco di cose interessanti da farvi ascoltare, molta musica diversa l'una dall'altra. Intanto beato chi da questa sera dalle parti di Milano si può ascoltare la band Savages, che vi ho fatto ascoltare qualche settimana fa, ben un paio di volte, perché il loro album da pochissimo uscito il 5 maggio è veramente una delle cose che ascolto con più frequenza in questi ultimi giorni, quindi veramente una fissa straordinaria. E prima band di oggi, loro sono gli Stereo Total, li conosciamo tutti, sono un duo franco-tedesco. Loro fanno, diciamo, per affibbiargli un genere, anche se nel loro caso è veramente molto difficile, musica elettronica, ma in realtà fanno anche musica trash, musica demenziale, musica pop, tutto quello che gli viene in mente in realtà, folk, ambient. I membri della band, per chi non lo sapesse, di questo duo sono François Cactou, che è la cantante, che è francese, di origine francese, la parte francese del duo, e che praticamente è uno dei personaggi femminili più straordinari che abbia mai visto, e l'altro componente, il tedesco Bresel Göring, siccome non diciamo mai i loro nomi perché per noi sono gli Stereo Total. Allora, notiziola è che è uscito per un'etichetta che si chiama Stat Sucked, sette pollici, che da un lato propone una versione, diciamo una nuova versione di un pezzo di un paio d'anni fa, di qualche anno fa comunque, che si chiama Pixelize Me, e un nuovo pezzo dal quale hanno pure tratto un video, tra l'altro girato dallo stesso regista che girò a suo tempo I Love You Oh No. Il pezzo si intitola We Don't Wanna Dance, è fichissimo il testo, perché appunto sostanzialmente prende in giro l'idea che per forza bisogna andare a ballare, andare a questi, insomma, in discoteca, nei club, eccetera eccetera, e divertirsi ballando musica che peraltro spesso non ci piace, e quindi loro, come è il loro solito, ce lo raccontano proprio puro e crudo. Stereo Total, We Don't Wanna Dance. We hate Questi erano gli Stereo Total, appunto il nuovo 7 pollici che è uscito da pochissimo per la Staatsakt, appunto, che dall'altra parte ha Pixelize Me, che è un'altra bellissima canzone loro, molto molto divertente. Come vi dicevo, insomma, anche come un po' ci contraddistingue, abbiamo moltissimi salti, diciamo, di generi musicali, quindi ascolterete tantissime cose molto diverse. Cominciamo con Julia Losfeld. Lei esce per la Moose Records, che è un'etichetta molto interessante che io non conoscevo, che insomma mi riservo di approfondire per voi e poi di presentarvi qualche altra cosa che magari possiamo condividere assieme. Julia Losfeld è diciamo un'artista che vive a Parigi e che sostanzialmente ha nei scorsi 3 anni collaborato con un produttore che si chiama Andrea, che appunto è anche parte della Muse Records, e si è fatta insomma sentire, si è fatta abbastanza notare per alcune sue collaborazioni, soprattutto vocali, come vocalist nei lavori di Andrea. Finalmente esce qualcosa di completamente suo, quindi una traccia originale. Se la cercate, Julia Losfeld, trovate anche una bellissima cover di By the River di Brian Eno, veramente molto molto bella, di cui mi sono subito innamorata. In ogni caso vi faccio ascoltare questo primo singolo, che probabilmente insomma è un inizio per un progetto del tutto indipendente che noi insomma ci auguriamo riesca ad arrivare in porto. Lei si chiama Julia Losfeld, il pezzo si intitola Away. Enemies and chains make you want enemies and chains. Enemies and chains make you want enemies and chains. Enemies and chains make you want enemies and chains. Enemies and chains. Questa era Julia Losfeld, scusate, spero che insomma vi sia piaciuta. Mi sembra veramente molto interessante questo lavoro, semplice ma assolutamente d'atmosfera, molto ben dosato, e la sua voce è molto molto calda, molto bella. La prossima artista, intanto vi dico un po' di concerti. Voi sapete che noi non facciamo pubblicità a posti che non sono in qualche modo legati appunto alla lotta politica, quindi insomma che in qualche modo i quei soldi non sono una semplice entrata commerciale, quindi non vi dico solitamente dove si tengono questi concerti, poi sarete voi, se siete interessati, andare a cercare, insomma, a digitare le paroline magiche e poi vedere dove si tengono. Il 5 giugno è una giornata interessante qui dalle parti di Roma, visto che c'era il concerto dei Dead Can Dance, che con il loro ultimo album in concert, che abbiamo anche ascoltato insieme, insomma, sono tornati veramente anche con delle atmosfere bellissime, molto intense, quindi io spero di esserci. E poi lo stesso giorno, sempre il 5 giugno, qui a Roma ci sarà Letizia Sadier, che è un'artista poco nota, ex componente degli Stereolab, che invece sono molto più famosi soprattutto in Europa, appunto artista francese che ormai è al secondo, l'anno scorso insomma ha realizzato il suo secondo album da solista, che si intitola Silenzio e che abbiamo ascoltato qui da Sisterhood is Blooming. La prossima artista l'ho scoperta questa settimana, lei si chiama Jenny Hval, H-Val, è un'artista norvegese. L'album che è appena uscito è uscito per una etichetta interessante, si chiama la Rune Gramophone, e l'album si intitola Innocence is Kinky. Diciamo che potremmo classificarla sotto il genere sperimentale. L'album è stato registrato a Bristol ed è prodotto e registrato da un artista che ha una lunga carriera e anche tantissime interessanti collaborazioni con molte artiste che ci piacciono. Si chiama John Parrish, una per tutte appunto la sua annosa collaborazione con PJ Harvey, insomma anche molti lavori che hanno condiviso assieme. Jenny Hval ha pubblicato un bellissimo album l'anno scorso che si titola Viscera, che vi consiglio di andare a cercare perché è veramente molto molto bello, molto folgorante, come si trova l'aggettivo che è più utilizzato in giro sulla rete. E poi appunto ha un'esperienza con un duo nato l'anno scorso che si chiama Nude on Sand, con appunto un altro musicista. Lei è una cantante, una scrittrice, si occupa soprattutto di media nella appunto Norvegia ed è una sound artist, insomma si occupa anche di installazioni sonore eccetera eccetera. L'ultima che mi sembrava molto interessante era uno studio sul volto femminile sullo schermo, da Giovanna D'Arco, la dreierana Giovanna D'Arco appunto, a Sasha Gray e Paris Hilton, quindi insomma un personaggio molto molto eclettico. In questo album Innocence is Kinky Jenny si occupa soprattutto, diciamo, di esorcizzare, come dice lei stessa in un'intervista in inglese che ho trovato in giro sulla rete, i suoi incubi sessuali. E il pezzo che ho scelto per voi è la traccia che si intitola I Called, lei si intitola Jenny Hval. Ovviamente non si intitola, ma si chiama. Sublimation. I gave up trying. Questa era Jenny Wall con il pezzo intitolato I Cold. Vi ricordo il suo album, si chiama Innocence is Kinky, è veramente molto vario anche, forse qualcuno, insomma, ho letto delle recensioni, lo considera poco coerente, diciamo, i pezzi sono poco coerenti tra loro, ma io questo lo trovo spesso un di più, una cosa positiva degli album, che insomma non sempre questi album tutti pensati in sequenza e tutti ben aggiustati danno soddisfazione, almeno per me. La prossima, un po' di concerti, Miss Kitten, vi sto dando un po' i nomi anche un po' più importanti, sapete che poi a luglio qui a Roma ci sono concerti praticamente ogni sera, quindi ovviamente è impossibile andarseli a guardare tutti. Miss Kitten ci sarà il 5 luglio e poi appunto in sequenza ci sarà il 7 Diana Krall, che io vorrei sinceramente andarmi a vedere perché mi è piaciuto molto il suo ultimo album uscito quest'anno, e Cat Power il giorno dopo, tanto diciamo per dirvene qualcuno. Prince Rama dall'altra parte, insomma, approvano, dall'altra parte del vetro qui in radio approvano. Prossimo duo, loro si chiamano Prince Rama, sono veramente un duo molto interessante, escono per la Poe Tracks, che è un'etichetta, è l'etichetta degli Animal Collective, della band, che ha insomma tra le sue fila delle artiste, degli artisti molto interessanti, e sono veramente un duo interessantissimo. Loro fanno psycho dance, si potrebbe dire, vengono da Brooklyn, sono due sorelle, si chiamano Taraka e Nimai Larson, e hanno vissuto in un ashram, hanno lavorato per degli architetti utopici, dicono di loro stessi, hanno scritto diversi manifesti della loro filosofia di vita, che è appunto legata a tutte le cose artistiche che fanno. Fanno delle lezioni e dei laboratori in diciamo di lettura collettiva in posti assurdi, non ve le sto a dire, tantissime appunto performance live molto interessanti che mescolano appunto vari tipi di arte. Perché ve le racconto e ve le presento? Perché loro hanno fatto alla fine dell'anno scorso questo album che si chiama Top 10 Hits of the End of the World, e hanno scritto sostanzialmente 10 singoli, 10 brani sostanzialmente che sarebbero una sorta di album di collezione delle band, di 10 band dei loro singoli più interessanti dopo la fine del mondo, quindi insomma quello che si salverebbe dopo la fine del mondo secondo loro. Quindi si sono inventate anche dei nomi da dare a chi aveva composto e eseguito questo pezzo, e quindi sotto questo, diciamo, sotto questo concept album vi faccio ascoltare uno di quello che hanno scritto. Vi do un riferimento che è appunto www.now-age.org, che è il sito dove trovate tutti i loro scritti, manifesti eccetera eccetera, quindi insomma come dice il sottotitolo del sito, meditazioni sul suono e sull'architettura dell'utopia, quindi insomma mi sembra molto interessante. Loro si chiamano Prince Rama, il pezzo che ho scelto per voi si intitola Those Who Live For Love Will Live Forever, quelli che vivono per l'amore vivranno per sempre, e il nome della band che si sono inventati si chiama Immortal Life. Loro sono Prince Rama. Do I love you? E questo erano Prince Rama con appunto il loro pezzo Those Who Live For Love Will Live Forever. Mi fanno sapere via Facebook Sisterhood Is Blooming se volete unirvi a noi, che il 12 giugno la straordinaria poetessa del rock Patti Smith sarà a Bagnoli. Sapete che a marzo c'è stato un incendio, dicono forse doloso, io direi sicuramente doloso, che ha devastato, distrutto completamente la città della scienza, una delle poche cose belle che insomma belle nel senso anche di funzionanti e all'interno delle quali succedevano delle cose belle di quelle parti. E quindi la Patti ha pensato bene, ha chiesto di contribuire alla causa dell'attenzione della ricostruzione probabile, improbabile, chissà, di Bagnoli, cominciando il suo tour a Napoli. E quindi il 12 giugno, per chi è da quelle parti, andatevi a vedere la straordinaria Patti Smith. Facciamo un salto in un genere musicale completamente diverso, parliamo di addirittura musica classica contemporanea. Vi voglio far ascoltare questa compositrice e violoncellista, non so voi, ma il violoncello è uno strumento che io veramente adoro e che in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi mood mi trova, insomma in qualche modo mi trascina in acque più tranquille e calme. Lei si chiama Julia Kent. È appena uscito il suo ultimo album, è uscito il 4 marzo, si intitola Character per la etichetta Leaf. Forse molti di voi conosceranno, molti di voi conosceranno la sua musica pur magari non attribuendola a lei, perché alcuni suoi pezzi sono dell'album del 2007 che si intitola Delay, sono stati inseriti nella colonna sonora del film This Must Be the Place, e insomma quindi sicuramente avete ascoltato alcune delle sue note al violoncello. Inoltre lei è anche molto conosciuta per la sua collaborazione appunto come violoncellista con la band di Anthony and Johnson, quindi insomma la vedrete anche in concerto con Anthony che arriva in Italia fra poco. Parliamo del suo album Character. E anche di lei, soprattutto una compositrice, una musicista canadese di Vancouver. Secondo me questo album, che appunto utilizza anche molti loop di violoncello, quindi insomma è musica classica contemporanea ma comunque vista anche in un'ottica proprio di come la suona, molto interessante, molto attuale, molto contemporanea. Insomma, bando alle chiacchiere, l'album si intitola Character, lei si chiama Julia Kent e il pezzo che ho scelto per voi si intitola Tourbillon. Questo è sempre Sisterhood is Blooming, no, non vi siete sbagliate. Ancora qualche una ventina di minuti da passare insieme, forse, se tutto va bene. Prossima band, spero che vi sia piaciuta Giulia Kent, è una artista veramente straordinaria, poco nota, diciamo, con il suo nome, quindi insomma vorrei che scaricaste dal suo Bandcamp, compraste oppure insomma fate come volete il suo album Character, perché è veramente molto molto godibile. La prossima band è in realtà una band che non esiste più, una band degli anni 80, si chiamano Bona Dish. È un po' particolare questo nome, viene da uno slang che era molto diffuso negli anni 80, uno slang insomma della comunità omosessuale. Dish era solitamente insomma un piatto succulento, no? Insomma una persona che era molto attraente, ed era appunto uno slang che veniva usato diciamo negli anni 80, negli anni 70, un po' per non farsi capire dagli altri fondamentalmente. Bona Dish era un pop punk group, due ragazzi e due ragazze, venivano dall'Hertfordshire e hanno realizzato sostanzialmente ai tempi un paio di cassette. Dovreste sapere, forse lo sapete, insomma ve lo dico per chi non lo sa, che negli ultimi anni, grazie un po' anche al passaparola del web, si riescono a recuperare dischi su vinile, su cassette eccetera, e riportarli, insomma rimasterizzarli e ripulirli e farli diventare appunto un audio godibile anche in digitale. Una delle cose che appunto fa questa Captured Records è appunto questa, cioè di recuperare vinili o cassette, di diciamo masterizzarli nuovamente, insomma di renderli ascoltabili e godibili, come hanno fatto appunto con questa cassetta di Bona Dish. Da questa raccolta che si chiama Saragossa Singles 1981-82, che potete trovare anche sul sito della Captured Records, dischi catturati potremmo tradurre, ho scelto per voi, per farvi ascoltare, per chi non avesse mai ascoltato le note di Bona Dish, il pezzo che si intitola 8 AM. Panadish 8 AM, il puro suono degli anni 80, meravigliosa, veramente dovreste assolutamente procurarvi questa appunto cassetta rimasterata, rimasterizzata, ok. Allora, le 6:01 da queste parti, spero anche dalle vostre, qualcuno ci ascolta in macchina, qualcuno ci manda messaggini, insomma, per condividere le cose. Vi abbraccio tutte e tutti, dovunque voi siate, sia in streaming, che siete tantissimi e tantissime, e sia appunto in radio, perché può, da queste parti. Io vado di corsa, quindi vi dico pochissime cose, perché voglio farvi ascoltare almeno altri 3 brani prima di chiudere, quindi ci siamo quasi. Il prossimo ascolto, Butter Clock, un po' Coco Rossi, un po' Emily Wells. Entrambe, sia le Coco Rossi che Emily Wells, sono tra le mie musiciste preferite, quindi insomma, nonostante questo stranissimo nome, Butter Clock, l'orologio di burro, vi faccio ascoltare un estratto di questa artista, dall'EP che è uscito il 15 aprile, che si chiama First Prom, e il pezzo si intitola Milky World, anzi scusate, Milky Words. Sarà Butter Clock con il pezzo Milky Words. Io chiudo oggi con un artista che viene dal Mali, si chiama Rokia Traoré. è uscito appunto da poco il suo ultimo album che si intitola Beautiful Africa. Lei è una musicista, è una cantante, le suona la chitarra, e la sua carriera sicuramente è caratterizzata dal legame con la sua terra, ma anche un respiro molto internazionale. Anche le sue collaborazioni, guardavo appunto sul suo album, ci sono altre due chitarre di Stefano Piglia e John Parrish, anche questa volta, come vedete, un collaboratore con tantissime artiste donne, e lei stessa ovviamente, è appunto costruito su suoni e su riff molto rock, per quanto non potete fare a meno appunto di trovare, di ascoltare comunque in tutto l'album, in tutti i pezzi, una straordinaria poi influenza di quella che è la musica africana in totale. E in Beautiful Africa lei canta nel linguaggio West African, appunto dell'Africa occidentale, che si chiama Bambara, poi canta in francese, qualche volta anche in inglese, e sono testi piuttosto impegnati, sia a livello personale, quindi sia rispetto alla sua storia personale di donna, sia per quello che succede nella sua Africa. Quindi Beautiful Africa è un bellissimo lavoro, secondo me dovreste assolutamente andare a cercarlo sul web e godervelo. Io vi lascio dandovi un po' di riferimenti: www.twomenshow.wordpress.com è il nostro blog di riferimento, dove potete poi ascoltare in streaming o scaricare il podcast, oppure consultare la playlist, magari perché non siete riusciti a segnarvi l'artista che più vi ha colpita. www.mfla.noblogs.org è il blog del martedì femminista e lesbico autogestito, che continua fra pochissimo con appunto dalle 18 alle 10 e 12 alle 19:30 con Atti e Misfatti, appuntamenti, iniziative, comunicati, azioni, atti, fatti e misfatti di femministe e lesbiche in Italia e a volte anche nel mondo. Ci sono tante cose interessanti, tra l'altro l'intervista alle Badole, che appunto insomma è stata registrata, e la presentazione del nuovo video su Pina Selec, poi tutti gli appuntamenti della settimana. Io vi lascio a non so quando, in genere ci vediamo il martedì tra le 5:15 e le 10, quindi insomma un orario che vi permette, aspettando Sister Iris Blooming, di ascoltare l'intero martedì e tutti i suoi appuntamenti. Tanasonica vi saluta, vi lascio con la voce e la chitarra di Rokia Traore e il suo pezzo che dà il titolo all'album Beautiful Africa. Bade la gine ka uka kele akwa kela nimisa Kongo zaire ka ube kele mina akwa beke nimisa Kele manyinde, dusu manyinde Oo mansaba, neson suma ya langa dusu maraye Nyone nini nyombo nyabali ya kode yinisa Kele baine nyonlanjabani o kode yinisa Kele manyinde, dusu manyinde O mansaba, nesonsu maya langa dusu maraye Anga politiki mogo uka bembali ya tefamude Bembali ya kumana kena ufuloko ye atefamude ala Bembali ya kumana kejo yoroko ye atefamude Combine fratricide, bonnes intentions destructrices Le grand Mali chavire, accablé, assise altérée, arrimage brisé Le flot de mes larmes s'emballe, ardente est ma peine. Mais dans mes veines d'afro-progressiste, le son bambara chargé d'espoir brûle. À contre-jour, mon hardiesse persiste. À contre-courant, mes convictions résistent. Je crois en la sagesse et l'intégrité. L'assurance, la dignité et l'humilité grandissantes dans le cœur de tes enfants. Par la justesse de leurs actes, par leur union et leur constance, connivence et respect mutuel, ils te soulageront des maux qui tournent. Nessun suma e l'angandu suma raie. Battered, wounded Africa, why do you keep the role of the beautiful, naive, deceived? Yet my faith